giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste la visita dei ministri Urso e Ciriani, prima alla BAT di Bagnoli per l'ampliamento del sito produttivo e poi all'inaugurazione della Casa del Made in Italy, nuovi presidi sul territorio per aiutare l'internazionalizzazione delle aziende. Friuli investe 1 milione di euro in Santa Lucia Mobili, nuovo slancio alla crescita e all'occupazione della storica azienda di Prata che proprio quest'anno compie 60 anni. Caso Resinovic, cancellate le immagini della GoPro del marito, i dati però confermano il suo alibi. FVG via libera, nuovo codice del commercio e turismo, tassa di soggiorno estesa a tutti i comuni che potranno reinvestirla nel territorio. Oggi l'approvazione del Comitato Autonomie Locali. Go 2025 al via il terzo bando per progetti transfrontalieri, oltre 1 milione di euro per nuove idee tra Italia e Slovenia. Slowfest torna dal 18 al 20 settembre con 60 eventi e 3.000 studenti coinvolti, al via la 12ª edizione del Festival degli Sloveni in Italia, presentato oggi, musica, teatro, arti e letteratura per celebrare l'identità multiculturale del Friuli Venezia Giulia. Trieste ha inaugurato il percorso nel Bosco del Farneto per promuovere salute e benessere, il percorso si snoda nel più grande polmone verde della città, donato nel 1844 da Ferdinando I. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale della RAI, a microfono Andrea Saule e Anna Vitaliani in studio. Oggi a Trieste la visita del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso Bagnoli della Rosandra, l'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento della BAT, British American Tobacco, con nuove aree e nuove linee produttive dedicate ai prodotti di nuova generazione, presente anche il governatore Massimiliano Fedriga. Urso poi si è spostato in città proprio in questi minuti e tra pochissimo inaugurerà la casa del Made in Italy di Trieste, situata in piazza Vittorio Veneto. Le case del Made in Italy sono dei nuovi presidi territoriali del MIMTI, istituiti con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del Ministero, appunto, e delle sue articolazioni sul territorio. Sentiamo. Innovazione e identità, elementi caratterizzanti del Made in Italy secondo il ministro Adolfo Urso, simboli dello sviluppo industriale delle imprese italiane di BAT che hanno aperto alla strada dell'internazionalizzazione e hanno contribuito negli ultimi 3 anni a migliorare l'indice di attrattività del paese, dal 23° posto al 16° del 2025. Questo grazie alle politiche del governo, spiega il ministro Urso, che ha puntato sull'impresa come motore dell'economia. Dato ulteriore di crescita, i 35 miliardi di euro di investimenti stranieri in greenfield, ovvero in impianti nuovi creati anche grazie ad incentivi statali. In questo contesto, l'inaugurazione oggi allo stabilimento BAT di San Dorligo della Valle a Trieste di una nuova categoria di prodotto, una nuova linea di produzione e la firma di un memorandum con il Ministero dell'Agricoltura della durata di 3 anni per l'acquisto fino a 15.000 tonnellate di tabacco italiano. Le firme sul memorandum, quelle del sottosegretario La Pietra e dell'amministratore delegato BAT Italia De Petris, che ha sottolineato la crescita del sito industriale triestino inaugurato soltanto 2 anni fa. San Dorligo della Valle, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È presente questa mattina alla British American Tobacco anche il ministro dei rapporti col Parlamento, il perdonese Luca Ciriani, che a margine dell'evento ha parlato con la stampa commentando la crisi del settore del bianco e l'attenzione dei sindacati di Electrolux. Da sempre seguo anche personalmente quell'azienda perché fa parte del territorio, l'ho seguito anche quando ero assessore all'industria in regione. Certamente ci preoccupa tutto il settore del bianco, la crisi europea di questo settore. Siamo pronti a intervenire con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Anche nel recente passato abbiamo dimostrato la massima attenzione, anche quando lei forse ricorderà abbiamo tra virgolette minacciato l'utilizzo del Golden Power in caso di trasferimento della proprietà ai cinesi. C'è la massima disponibilità a ragionare sempre con le imprese e con i sindacati a tutela innanzitutto dei posti di lavoro e degli insediamenti industriali nella nostra regione. Oggi qui festeggiamo un grande insediamento che dimostra l'attrattività dell'Italia, di Trieste e della nostra regione, e vogliamo continuare su questa strada. Friulia, finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia, entra nel capitale di Santa Lucia Mobili con un investimento di 1 milione di euro, pari al 13,8% delle quote della storica azienda del mobile di Prata di Pordenone, che proprio quest'anno celebra i 60 anni dalla fondazione. L'operazione punta a sostenere la strategia di sviluppo dell'impresa presente in 43 paesi del mondo. Il piano industriale 2025-2027 prevede investimenti mirati per il rinnovo del parco macchine e per l'ottimizzazione dei flussi logistici e produttivi all'interno dello stabilimento. Tra gli obiettivi anche un potenziamento occupazionale. Attualmente Santa Lucia conta di 170 dipendenti, ma sono previste nuove assunzioni nei comparti produttivo e dei servizi generali. L'azienda ha chiuso il 2024 con ricavi in aumento a 31,2 milioni di euro rispetto ai 28,9 milioni del 2023. Con questo investimento, ha dichiarato Federica Seganti, presidente di Friulia, confermiamo la missione di sostenere l'eccellenza del nostro territorio e accompagnarle nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione. Santa Lucia Mobile è un'azienda che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, diventando un punto di riferimento nel settore dell'arredo. Fondata da 7 falegnami all'indomani dell'alluvione del Friuli, Santa Lucia Mobile ha costruito negli anni un modello industriale completo, dalla produzione dei semilavorati all'imballaggio alla spedizione del prodotto finito. E ora il caso Resinovic. Inizializzata la scheda della GoPro usata da Sebastiano Visentini il giorno della scomparsa della moglie Liliana, la cancellazione è avvenuta il 13 giugno 2023, lo stesso giorno in cui fu riaperta l'inchiesta, ma i file acquisiti in precedenza combaciano con la sua versione dei fatti. Un giallo nel giallo, la schedina di memoria e la GoPro di Sebastiano Visentini utilizzati in un giro in bici il 14 dicembre 2021, lo stesso giorno della sparizione di sua moglie Liliana Resinovic, è stata cancellata, ma i dati acquisiti in precedenza combaciano con la ricostruzione di quella mattina da parte dell'unico indagato. È quello che emerge dalla relazione tecnica della polizia postale mandata agli inquirenti. Secondo quello che si legge dall'analisi dei file di sistema, la scheda sarebbe stata cancellata in data 13 giugno 2023 approssimativamente attorno alle ore 20:37-20:38. Una data curiosa, visto che lo stesso giorno in cui il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dai Notti, accoglieva l'opposizione all'archiviazione del caso e disponeva nuove e più approfondite indagini. Nella relazione non viene specificato chi fosse in possesso della scheda al momento della cancellazione, ma di sicuro, e lo conferma l'avvocato di Visentin, Alice Bevilacqua, tutti i file erano già stati acquisiti precedentemente con copia forense. Infatti, l'analisi della polizia postale prosegue parlando proprio dei metadati. Hanno permesso di ricostruire in maniera precisa alcune parti dell'itinerario percorso in bicicletta da Visentin tra le ore 12:16 e le ore 13:33. In quei file, le coordinate GPS dei video combaciano con quanto dichiarato dal marito di Liliana Resinovic il 14 febbraio del 2022, un mese dopo il ritrovamento del corpo, in cui definiva quei video del giro in bici in Carso il proprio alibi. Non mi meraviglio di nulla, il solito Sebastiano con il solito gioco delle tre carte, il commento di Sergio Resinovic, il fratello di Liliana. Ci sono tante anomalie nelle sue dichiarazioni, mi auguro che la nuova procura, verso il quale ho massima fiducia, faccia con tempestività luce anche su questo. Dai legali della famiglia emerge il dubbio: è possibile che quei dati siano stati modificati prima che la scheda fosse consegnata agli inquirenti? Un quesito a cui soltanto i periti potranno rispondere. Occupiamoci ora dell'asilo nido di Roiano, realizzato più di un anno fa ma ancora chiuso per un braccio di ferro sulla gestione NATO all'interno della stessa maggioranza. Un accordo ora sembra essere stato raggiunto: la scuola sarà pubblica, il personale invece esterno, verrà fatto un appalto sul modello dei centri estivi. Il servizio. A un passo dalla soluzione, il blocco sull'asilo nido di Roiano, Trieste, durato oltre un anno, potrebbe essere risolto a breve con un accordo della maggioranza comunale e portare così alla tanto attesa apertura dell'istituto, in grado di ospitare 66 bambini. Secondo le ultime indiscrezioni apparse sulla stampa locale, l'ipotesi sarebbe di una gestione in appalto a cooperative. Proprio su questo aspetto, la gestione del nido, la maggioranza si era divisa negli ultimi mesi, con chi, come il sindaco di Piazza, caldeggiava la strada della concessione ai privati di metà dei posti, di cui 33 sarebbero rimasti in carico al comune con rette calmierate, su cui è stata costruita anche una delibera ferma da luglio a causa delle contestazioni, ipotesi che l'ex assessore all'educazione Brandi di Forza Italia considerava irricevibile. Alla base dell'indecisione una questione di costi: con la concessione il comune avrebbe risparmiato circa 480.000 euro per 10 mesi, mentre con l'appalto poco più di 300.000. Il costo di una gestione tutta pubblica, preferita dalle opposizioni e dai sindacati, sarebbe stata di oltre 610.000 euro. La marcia indietro, se sarà confermata, è accolta con favore dall'opposizione, come ha spiegato Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere comunale del Partito Democratico. Il partito darà il suo contributo. Dispiace, dice, che sono passati 15 mesi dopo una delibera che definisce sbagliata e fatta male. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'anno scolastico in regione inizia ufficialmente giovedì, ma molte scuole già sono partite. Questa mattina a Pordenone e Saccile alcune scuole del territorio hanno scelto di dedicare alle 10 del mattino un minuto di silenzio all'avvio delle lezioni per ricordare le vittime a Gaza e riflettere su tutte le guerre in corso, con iniziative che includono percorsi didattici dedicati alla pace e alla convivenza civile nelle prime giornate appunto dell'anno scolastico. Tra le scuole che hanno aderito a questa iniziativa, che è partita dal vicino Veneto, il liceo Leopardi Maiorana di Pordenone. Al liceo Leopardi Maiorana il primo giorno è iniziato con un minuto di silenzio per Gaza. Professor Paolo Venti, docente di questo liceo, come è nata questa iniziativa e qual è stata l'adesione? Beh, la scuola naturalmente non può rimanere insensibile davanti a quello che sta succedendo. Ci siamo trovati il 29 agosto a Vittorio Veneto, un gruppo molto partecipato di scuole, soprattutto del Veneto ma anche del Friuli. C'è stata una mozione che è stata diffusa e discussa in collegio docenti nelle varie scuole. E il mio collegio docenti, quello del liceo Leopardi, ha approvato il minuto di silenzio il primo settembre, quindi oggi l'abbiamo fatto con i ragazzi. Prima abbiamo letto delle cose, abbiamo letto la mozione e abbiamo ragionato con loro, e semplicemente vuol dire che la scuola si impegna nel corso dell'anno, nella sua attività didattica, a parlare di questo che sta accadendo nel mondo, che è oggettivamente scandaloso. La scuola non può rimanere con gli occhi chiusi davanti a tutto questo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Approvato oggi dal Consiglio delle Autonomie Locali il disegno di legge che riforma in modo organico il sistema normativo di commercio e turismo in Friuli Venezia Giulia. Tra le novità principali, l'estensione della tassa di soggiorno a tutti i comuni, con la possibilità di destinare fino al 50% degli incassi a investimenti nel territorio. Sarà estesa a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia la possibilità di introdurre la tassa di soggiorno, al momento riservata solo ai capoluoghi di provincia e alle località turistiche. Ciascun municipio potrà destinare ad investimenti, anche infrastrutturali, fino al 50% delle risorse incassate. Questa è una delle principali novità inserite nelle ultime revisioni del Codice regionale del commercio e del turismo, che semplifica le normative di settore. Dopo l'approvazione preliminare del disegno di legge in giunta giovedì scorso, oggi il testo è incassato l'approvazione del CAL e il Consiglio delle Autonomie Locali. Sergio Midobini, assessore regionale alle attività produttive e al turismo. Partiamo dal presupposto che una tassa comunale è una tassa di scopo, quindi quello che noi abbiamo voluto fare è liberalizzare l'utilizzo della stessa a favore dei comuni. Previsti canali contributivi per la manutenzione delle ciclovie e dei cammini turistici e contributi per l'avvio di strutture ricettive collocati lungo le stesse. Utili per piccoli comuni come Aiello del Friuli, per esempio. Nel paese delle Meridiane, per poter pensare alla tassa di soggiorno, c'è prima bisogno di alberghi. Roberto Festa, sindaco di Aiello del Friuli. Devo provare a confrontarmi con coloro che hanno queste strutture, che al momento magari sono anche vuote, di capire se si può in qualche modo implementare, anche perché col turismo lento noi siamo anche sede di tappa del Cammino Celeste. Sicuramente un insieme di tutte queste cose potrebbe sicuramente contribuire. Dopo il confronto con i sindacati, inserite anche premialità per imprese che si attengono ai contratti sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative. Nell'urbanistica commerciale è previsti contributi per l'apertura di esercizi di prossimità nei centri storici e in aree di indebolimento commerciale. Parere favorevole anche da parte di comuni di altro orientamento politico, come Udine. Alessandro Venanzi, vice sindaco. Aumentare il tema dei servizi anche con dei finanziamenti dedicati è una cosa importante. Noi a Udine lo stiamo facendo con 1,5 milioni di euro, lo stiamo facendo proprio in questa direzione, in maniera complementare e come dire, coordinata con la regione. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo: cielo nuvoloso sulla costa, coperto sul resto della regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 23 gradi con mare quasi calmo e temperatura di 25, a Udine e Gorizia 23 gradi, a Pordenone 22 gradi, a Tolmezzo nella fascia pedemontana 20 gradi, a Tarvisio 18, a Forni di Sopra 17, a Sappada 16, sul Piancavallo 15 gradi, Monte Zoncolano in cima 13 gradi, sul Lussari 12 gradi e mezzo, a Lignano 24 gradi e mezzo, grado 23 e mezzo con temperatura del mare di 24 in entrambe le località. Le previsioni oggi al mattino: cielo variabile, in giornata aumento della nuvolosità, dal pomeriggio saranno probabili piogge sparse, rovesci, temporaleschi. Domani cielo in prevalenza coperto con piogge intense, intermittenti e temporalesche, saranno possibili anche piogge molto intense, temporali forti, sulla costa soffierà scirocco anche sostenuto, specie nelle ore centrali della giornata, e saranno possibili mareggiate anche acqua alta, particolarmente tra Lignano e Grado, sui monti in quota soffierà vento da sud o sud-ovest sostenuto. svela ufficialmente il suo programma di questa 26esima edizione Pordenone Legge, la festa del libro che si terrà dal 17 al 21 settembre, questa mattina a Palazzo Montereale, Mantica, la conferenza stampa. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, a tutti i popoli, a tutta la terra. Una pace disarmata e una pace disarmante. Si è aperta con le parole di pace di Papa Leone XIV la tradizionale conferenza stampa di presentazione della 26esima Pordenone Legge, festa del libro e delle libertà, e con un applauso per il ritorno del direttore artistico del festival, Gian Mario Villalta, di recente colpito da un problema di salute. 400 incontri, 667 protagonisti italiani e internazionali, 56 anteprime dal 17 al 21 settembre e 15 mostre da visitare nella città capitale della cultura 2027. Inaugurazione mercoledì 17 con l'iraniana Shirin Ebadi. Un focus speciale sull'Europa con autrici e autori ucraini e russi, israeliani e palestinesi. Michelangelo Agrusti, presidente Fondazione Pordenone Legge. Pordenone Legge, come abbiamo affermato più volte, sta sull'uscio della storia, e la storia oggi ci propone drammi autentici che avremmo immaginato di non vedere più, soprattutto in Europa. C'è una guerra in atto della Russia che ha aggredito l'Ucraina, c'è una guerra devastante in Medio Oriente, ma noi riteniamo che la cultura sia il collante per creare il fondamento della pace, dell'intesa tra le persone, tra gli uomini. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentata questa mattina l'edizione 2025 del Festival delle Comunità di Habitat Microaree al Teatrino Franco e Franca Basaglia nel Parco di San Giovanni, un momento pubblico che conclude le attività estive sviluppate nelle 14 microaree cittadine. Dal Carso alla periferia, al centro di Trieste, ce ne sono 14, ma non molti le conoscono. Sono le comunità habitat delle microaree, luoghi in cui si combinano sociale, portierato e sanità per creare reti di relazione, supporto e benessere nei quartieri. Vi collaborano Comune, Asugi e Ater. Attive da 20 anni e caso unico a livello nazionale, propongono ascolto e azione sul campo. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Trieste, Massimo Tognoli. Possano trovare supporto, aiuto, ma anche tante forme di aggregazione e di socializzazione, perché uno dei mali più grandi che noi ci troviamo ad affrontare è quello della solitudine. A Trieste fragilità e solitudini hanno grandi numeri. In certi momenti abbiamo quasi raggiunto le 20.000 persone che abbiamo in carico. Significano 20.000 famiglie della nostra città. Quindi significa seguire e dare supporto diretto e indiretto a quasi metà città di Trieste. Nelle microaree si cerca di intercettare le problematiche più diffuse, dalla solitudine degli anziani al disagio giovanile. Max Capitanio, della cooperativa La Quercia. Il fatto di far uscire le persone che non vogliono uscire da casa, e permettendo situazioni di socializzazione, ad esempio, oppure incontrando gruppi di giovani che diventano proattivi, con la rabbia tipica dei giovani, ma che diventano proattivi per la risoluzione di un loro bisogno, per la risposta di un loro bisogno. Ecco, questo è il modo anche per risolvere, tra tante virgolette, che Habitat Microaree mette in campo. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentato stamattina il terzo bando del Fondo per i piccoli progetti GO2025, uno degli strumenti chiave per sostenere la cooperazione culturale, turistica e sociale tra Italia e Slovenia in vista di Nova Gorica, Gorizia, capitale europea della cultura. Il nuovo bando mette a disposizione una dotazione complessiva di 1 milione di euro. Per finanziare progetti della durata massima di 12 mesi con budget compresi tra i 30 e i 100.000 euro. Le candidature potranno essere presentate fino a venerdì 17 ottobre alle 12. Il Festival degli Sloveni in Italia, Slowfest, è arrivato alla sua 12esima edizione, si terrà in regione dal 18 al 27 settembre. Presentato questa mattina il programma, conta 60 eventi, un'immersione a 360 gradi nel mondo della musica, della letteratura, delle arti figurative. L'obiettivo è anche potenziare l'immagine multiculturale della regione. In questa edizione saranno coinvolti 3.000 studenti delle scuole italiane e slovene. Il collega Julian Ciaudek ha intervistato Zika Persi, presidente dell'Unione Circoli Culturali Sloveni in Italia. Stiamo entrando nel vivo dello Slowfest. Quali sono le novità proposte quest'anno? È una piccola novità, è già la location, in quanto ci trasferiamo da Piazza Sant'Antonio nuovamente in Piazza della Borsa, dove tutto è iniziato nel 2013. Poi una grande novità è che iniziamo il giovedì invece che il venerdì, e lo Stofest si svolgerà infatti il giovedì 18 settembre, venerdì 19 e sabato 20 settembre. È stata questa una scelta ponderata, in quanto abbiamo dato più spazio alle scuole, e questa è la grande novità, una grande presenza delle scuole sia italiane che slovene, ma soprattutto dalla Slovenia, così dimostrano anche di essere interessati alla vita degli sloveni in Italia. E dunque le scuole sono le grandi protagoniste di questa edizione. E poi ovviamente è un programma direi un po' classico, dove si intrecciano sia la cultura italiana e la cultura slovena, e dove tentiamo di presentare al vasto pubblico la vita e vari aspetti della comunità slovena in Italia. La musica è un evento imperdibile per gli amanti della musica classica, in particolare del repertorio barocco. Il Festival di Trieste, il faro della musica della Società dei Concerti, stasera alle 20:30 al Verdi accoglierà Francesco Corti, clavicembalista di fama internazionale e attuale direttore musicale del Teatro di Corte di Drottningholm, la residenza estiva dei Reali di Svezia. Corti sarà affiancato dall'ensemble Il Pomodoro, una formazione acclamata a livello mondiale per l'eccellenza delle sue performance eseguite con una prassi filologica che rispetta le intenzioni e le sonorità dell'epoca. Si ascolterà dunque un'interpretazione fedele dei repertori di Johann Sebastian Bach e di suo figlio Carl Philipp Emanuel Bach. Alle 19 al Ridotto del Verdi i musicisti dialogheranno introducendo il programma della serata insieme a Mario Seco, direttore artistico del festival. Il clou della serata sarà il concerto brandeburghese numero 5 che abbiamo scelto per accompagnare l'intervista col maestro Francesco Corti, a cui abbiamo chiesto cosa rende quest'opera così unica nel repertorio barocco. Il quinto brandeburghese è celeberrimo per essere uno dei primissimi, se non il primissimo, concerto per tastiera solista. La cronologia non è così sicura, però è di sicuro fra le prime pagine, in cui la tastiera, in questo caso il clavicembalo, si distacca dal ruolo classico di basso continuo e diventa un solista al pari degli altri due che l'accompagnano, in questo caso il violino e il flauto, che sono strumenti per l'epoca molto più classici. E non solamente diventa il solista, uno dei solisti di questo triplo concerto, ma Bach affida al cembalo un'enorme propositata cadenza che ha due versioni, ma quella celeberia è quella più grande, che per gli standard dell'epoca è completamente smisurata, soprattutto in Germania. Assomiglia alle grandi cadenze di Vivaldi, ma non si era mai visto qualcosa di simile e non si vedrà qualcosa di simile per un bel po', scritto per la tastiera. Il pubblico sente spesso parlare di esecuzione filologica. Cosa significa per lei, ed è un limite o è una fonte di libertà interpretativa? Allora, un'interpretazione filologica vuol dire interpretare musica del passato con strumenti simili, copie o strumenti originali, simili a quelli che il compositore ha conosciuto, quindi per cui questa musica è scritta, e affrontare questa musica anche con uno studio delle fonti dell'epoca, delle fonti di esecuzione, quindi documentarsi su cosa sappiamo dell'esecuzione di quegli anni. Ovviamente rimangono molti buchi, molte domande, però le informazioni che abbiamo dal passato spesso sono molto ispiranti, sono piene di indicazioni di libertà, di improvvisazione, di interpretazione libera, perché alla fine risultano essere piuttosto uno stimolo verso la libertà musicale che non un problema. Sono le 12:53, finisce qui il nostro GR, redatto e condotto da Andrea Saule e Anna Vitaliani in studio. In redazione ha collaborato Paolo Nuzzo, in regia Caterina Cabrelli. Grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.